24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Sempre in primo piano l'emergenza sbarchi, con l'Italia che progetta permessi di soggiorno temporanei per gli immigrati. Sul fronte economico nuovi problemi per il Portogallo dopo il taglio del rating da parte di Moody's. L'Italia non brilla invece nell'interim assessment dell'OCSE, ultima tra i paesi industrializzati per la crescita. In un'intervista esclusiva per 24 ore in Europa, il commissario europeo Michel Barnier annuncia la richiesta di chiarimenti all'Italia sul caso Parma. E torniamo anche all'Aquila, a due anni dal devastante sisma che colpì la città dell'Italia centrale. In apertura, come anticipavamo, l'emergenza immigrazione. Potrebbero presto circolare liberamente in tutta Europa i migranti in arrivo sulle coste italiane. Roma pensa infatti a un permesso di soggiorno temporaneo e aperture arrivano anche da Bruxelles. La Lega dice sì ai permessi di soggiorno temporanei per migranti. Si conclude con un accordo su questo punto il vertice a Palazzo Grazioli di ieri sera. Si tratta di un documento che permetterà agli stranieri la libera circolazione nell'area Schengen. Significa soprattutto che i migranti potranno lasciare l'Italia per muoversi nei confini europei. Ma soprattutto significa costringere il resto d'Europa, fin qui semplice spettatore, ad assumersi il carico di questo flusso di uomini e donne. I ragazzi tunisini, come si ricorderà, volevano andare in Francia, in Belgio, altri ancora sognavano Londra. Ora potranno muoversi e non potranno essere respinti alle frontiere. Anche la Commissione europea adesso pensa di attivare la direttiva 55 del 2001, che permette di concedere asilo per almeno un anno nel territorio degli Stati membri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto proseguono gli sbarchi a Lampedusa. Il numero degli extracomunitari è di nuovo salito a circa 1.500. Sul fronte trasferimenti sono 1.200 i tunisini accolti tra Trapani e Caltanissetta. Circa 700 saranno alloggiati nella tendopoli di Chinisia, nei pressi dell'aeroporto di Trapani Birgi. Un'area a rischio per la presenza d'amianto, dice il sindaco di Trapani, Girolamo Fazio. Lei ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Berlusconi e al ministro dell'Interno Maroni, nella quale, tra le altre cose, puntualizza che questo sito di Chinisia non è attrezzato per accogliere persone. Sicuramente non ci sono le condizioni igienico-sanitarie. Poi, secondo, poiché l'area in questione è stata dismessa nel 1961, c'è la presenza anche massiccia di amianto, che peraltro ha determinato anche l'iniziativa da parte del Comune e poi da parte della magistratura del sequestro di tre aree. Quindi queste tre aree poste sotto sequestro sono a ridosso di una tendopoli che è stata allestita in non questi giorni? Non molto distanti, sono limitrofi addirittura alla strada di accesso. Però quello che voglio sapere è che la tendopoli è stata allestita nonostante si sapesse. I cittadini l'hanno detto in tutte le salse. I cittadini come stanno reagendo, insomma, a questi arrivi? Con proteste ovviamente nella fase iniziale, poi ci sono state delle assicurazioni da parte della prefettura con l'incremento delle forze dell'ordine per quanto riguarda il controllo. Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la relazione presentata dall'eurodeputato Fiorello Provera della Lega Nord sull'emergenza immigrati che ha colpito Lampedusa. La relazione raccomanda ai governi dei 27 di assistere l'Italia e chiede alla commissaria Cecilia Malmström di attivare il meccanismo di solidarietà previsto nei trattati, inclusa la direttiva sulla protezione temporanea dei rifugiati che provengono da zone di guerra. Missione del ministro dell'interno Roberto Maroni a Tunisi per definire l'intesa sull'immigrazione clandestina. Siamo qui per concludere l'accordo, spiega il ministro, speriamo di fare una buona cosa. L'obiettivo dei tecnici del Viminale è rimpatriare i 1.000 migranti già identificati subito e programmare le partenze di altrettanti entro la fine della settimana. Senza l'Europa avremmo assistito in Libia a un bagno di sangue, a dei veri e propri massacri, così il presidente comunitario Herman Van Rompuy, intervenendo nell'aula del Parlamento europeo, ha replicato alle critiche contro l'azione del vecchio continente di fronte alla crisi del paese nordafricano. L'economia, l'agenzia di rating Moody's ha ribassato ancora di una tacca la nota di debito a lungo termine del Portogallo, portandola a Baa1 da A3. E ora le borse, moderatamente positiva a Milano, FTSE All Share più 0,17%. È stata un'altra giornata di cautela su mercati europei in attesa giovedì della riunione della BCE sui tassi. Il listino milanese ha chiuso a rialzo dello 0,23% con le banche che hanno virato in territorio positivo a metà seduta, avendo già scontato, secondo alcuni operatori, la notizia di ulteriori possibili aumenti di capitale. Intesa San Paolo ha chiuso invariata nel giorno delle decisioni relative alla ricapitalizzazione. La migliore su paniere principale stata ST, più 2,9%, in uscita all'annuncio da parte di Texas Instruments dell'acquisizione di National Semiconductor per 6,5 miliardi di dollari. Tra le azioni negative la peggiore è stata Parmalat, meno 2,5%, sulle ipotesi di un dietro fronte ai francesi di Lactalis dalla scalata dei vertici del gruppo di Collecchio, dopo che il governo italiano ha deciso di difendere in tutti i modi l'italianità di Parmalat. Malefi Meccanica, meno 2,2%, all'indomani della nomina di Giuseppe Orsi ad amministratore delegato al posto di Pier Francesco Guarguaglini, che mantiene la carica di presidente. Livia Zancanera da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. Diffuse intanto le previsioni dell'OCSE, il terremoto e lo tsunami che hanno colpito il Giappone porteranno a una contrazione dell'economia del paese quantificabile come prima stima tra lo 0,2 e lo 0,6% nel primo trimestre e tra lo 0,5 e l'1,4% nel secondo trimestre. L'economia dei paesi del G7 in recupero, conferma l'organizzazione, ma resta il problema del lavoro. E nel primo trimestre 2011 il prodotto interno lordo italiano è cresciuto dell'1,1% rispetto al più 3,2% dei paesi G7, sempre secondo l'OCSE. Nel secondo trimestre di quest'anno è prevista una crescita dell'1,3% per l'Italia e del 2,9% per il G7. Sentiamo il capo economista dell'OCSE, Piercarlo Padoan. L'Italia sta migliorando, insieme agli altri paesi del G7. La crescita che noi ci aspettiamo per la prima metà del 2011, poi vedremo la seconda metà, è abbondantemente superiore all'1%. Quindi è un significativo miglioramento rispetto all'anno scorso. C'è un rischio di una ripresa dell'occupazione lenta, l'occupazione però sta migliorando in molti paesi, la disoccupazione sta scendendo negli Stati Uniti a tassi incoraggianti, c'è un problema di disoccupazione di lungo periodo in Italia come altri paesi dell'area euro che deve essere affrontata non solo con più crescita, ma soprattutto con misure più efficaci sul mercato del lavoro, indirizzate al sostegno delle fasce più deboli, i giovani, le donne, quindi più un problema di disoccupazione strutturale, direi, che di disoccupazione ciclica. Nous avons ensemble décidé. La Commissione europea ha posto alcuni interrogativi al governo italiano sul caso Parmalat circa le misure che sono state prese dalle autorità negli ultimi giorni e quanto ha indicato il commissario al mercato interno, il francese Michel Barnier. Verificheremo il caso in modo imparziale, ha indicato Barnier. La Commissione europea avrebbe voluto fare di più sulla riforma della governance economica, in particolare sul fondo salva stati permanente. Lo ha detto il presidente della Commissione, José Barroso, intervenendo all'Europarlamento. Per il funzionamento dello European Stability Mechanism, ha spiegato Barroso, avremmo voluto per esempio più flessibilità, ma trovare il consenso tra gli stati membri non è stato possibile. Quote rosa nei CDA e voto degli azionisti sulle retribuzioni dei propri manager sono due delle ipotesi a cui sta lavorando Bruxelles, che dopo l'estate potrebbe decidere di proporre nuove norme sulla governance societaria. La vicenda nucleare giapponese sta influenzando anche il dibattito in Europa. 8 francesi su 10 auspicano che nel giro di 20 o 30 anni la Francia diminuisca in modo significativo la quota del nucleare, così secondo un sondaggio per France Soir. E l'Unione Europea ha espresso la propria inquietudine sull'ondata di arresti della polizia cinese contro i dissidenti. Lo ha detto il rappresentante europeo a Pechino, che ha parlato di uso di detenzione arbitraria. L'ultimo a cadere nella rete della polizia è stato domenica l'artista Ai Weiwei. Torniamo in Italia. 2 anni fa il terremoto dell'Aquila. Durante il G8, poco dopo il terremoto del 6 aprile 2009, i grandi del mondo andarono nella città dell'Italia centrale e promisero quasi tutti di adottare un monumento o un pezzo della città distrutta e da ricostruire. 2 anni dopo, se la Germania ha già speso circa 6 milioni di euro a favore della frazione di Onna, non tutti gli stati hanno onorato quelle promesse. Lo ricorda il sindaco Massimo Cialente nell'intervista a Raffaella Calandro. Paesi che hanno onorato sono la Francia, il Kazakistan, la Germania che ha adottato Onna e poi la Russia che ha adottato un palazzo ed una chiesa, poi c'è il Canada che ha fatto una donazione, ha donato una struttura per gli universitari, il Giappone che ha terminato un auditorium un po' particolare, queste strutture in cartone che fanno architetto loro, per il conservatorio che non so se adesso farà il palazzetto dello sport che ci aveva regalato, ma con quello che è successo al Giappone. Poi gli australiani che ci stanno regalando un teatro. L'America? Obama? No, Obama non si è sentito né America né la Gran Bretagna, l'Inghilterra. Il cinema, dal canto suo, ha subito raccontato i drammatici giorni dell'Aquila, celebre sul web la serie From Zero, che raccontava giorno dopo giorno la vita nelle tendopoli. Ora gli stessi autori cercano di spiegare al mondo cosa è successo in questi due anni. Questa sera alle 21 su Al Jazeera English, Broken Promises di Giotto Barbieri. Il produttore Stefano Strocchi al microfono di Marta Cagnola. Noi abbiamo lavorato gomito a gomito con i produttori di Al Jazeera proprio per cercare di spiegare il più possibile tutte queste cose che potevano essere misinterpretate. Se capitasse a noi che viviamo a Londra, che viviamo a Berlino, che viviamo a Parigi, una cosa del genere non ci basterebbe essere messi in delle casette di legno ai sobborghi della città. In molte parti d'Europa quella tipologia di casa è considerata un normale condominio, sono delle belle case, però sono lontanissimi dal centro dell'Aquila e chi ci vive dentro è stato messo dentro con dei criteri a punti, per cui tutta la società che una volta all'Aquila si raggruppava intorno alla città in un certo modo è stata completamente smantellata. Sport, basket, il Maccabi Tel Aviv ha chiesto all'Eurolega di anticipare gli orari della Final Four di basket dal 6 all'8 maggio a Barcellona. Motivo della richiesta israeliana, la concomitanza delle celebrazioni del giorno della memoria dei caduti in guerra e delle vittime del terrorismo, che si celebra ogni anno in quei giorni. Il Maccabi ha già fatto sapere che se le sue richieste non verranno accolte non parteciperà alla Final Four. Gli israeliani dovrebbero affrontare la vincente della serie playoff tra Real Madrid e Valencia, mentre Siena sfiderà in semifinale il Panathinaikos. E sul fronte degli appuntamenti di oggi vi segnaliamo all'Europarlamento il dibattito con Commissione Europea e Consiglio sulla sicurezza nucleare in Europa. Prevista anche una dichiarazione dell'alto rappresentante per la politica estera Catherine Ashton sulla situazione in Siria, Bahrain e Yemen. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.